Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salvadanaio. Neanche partita la trasmissione che già sulla sigla di apertura mi sono presa la prima sgridata della mattinata dal mio tecnico, da Fabio Cantadori Scherzando, che si lamenta che sposto sempre il microfono quando è il momento meno indicato per farlo. Prendo atto e sto ferma con le mani, guarda, le alzo anche. Allora, di che parliamo oggi? Gli italiani, lo sappiamo, sono un popolo molto affezionato al denaro contante, come testimoniano tantissime ricerche. Le complicazioni però iniziano ad arrivare quando la scarsa familiarità con il denaro di plastica, con il bancomat, con la carta di credito, rischia di diventare qualcosa di molto oneroso. L'argomento è all'ordine del giorno. Perché? Perché dall'inizio del mese si sono susseguite diverse dichiarazioni in merito all'aumento delle spese bancarie sui prelievi di denaro in filiale, quindi da sportello fisico e non da bancomat. Negli ultimi mesi le associazioni dei consumatori hanno iniziato a ricevere diverse segnalazioni sull'aumento delle commissioni messo in atto da parte di molti istituti di credito. E su queste indicazioni si è mosso anche Mister Prezzi, Roberto Sambuco, nel corso di un'audizione al Senato, prendendo una posizione molto vigorosa contro gli istituti e sostenendo di avere ricevuto anche presso questo ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico numerose segnalazioni relative a disservizi, opacità, mancanza di trasparenza e chiarezza. E l'ufficio del Garante dei Prezzi ha annunciato così l'avvio di un'indagine che verificherà le singole spese scaricate sui consumatori, ma anche la corretta applicazione delle norme sulle massimo scoperto. Non si è fatta attendere la replica dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che ha invece rivendicato la trasparenza dell'operato degli istituti e il normale regime di concorrenza. Ma come mai sono stati introdotte, si stanno introducendo gradualmente da parte di tutte le banche, queste commissioni sulle prelievo di contante allo sportello? Quindi ribadisco, allo sportello, dall'impiegato, non quello che facciamo, non quel prelievo che facciamo al bancomat. Ne parliamo stamattina con Nicola Borzi, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Bentornato, ciao. Buongiorno Debola, buongiorno ascoltatore. E ben ritrovata anche ad Anna Vizzari, ufficio studi economico giuridici di Altro Consumo. Buongiorno e bentornata. Grazie, buongiorno. Vi chiederete perché non avete chiamato le banche? Perché per la verità ieri abbiamo fatto un bel po' di telefonate. Qualche banca ci ha detto questa è una posizione che deve prendere il sistema, cioè l'ABI. L'ABI ci ha detto no grazie, sono le banche che devono parlare su queste decisioni che stanno prendendo. Molto bene, e noi abbiamo chiamato Nicola Borzi e Anna Vizzari, quindi in qualche maniera commenteremo quello che sta accadendo. Tra l'altro, da un lato le banche hanno l'obiettivo di scoraggiare l'uso del contante a beneficio di carte di credito e bancomat, perché la lotta al contante, la guerra al contante ha delle origini e delle motivazioni molto più estese rispetto al tema, diciamo, limitato di cui stiamo parlando questa mattina. Permette questa lotta di liberare risorse allo sportello da destinare ad operazioni a maggiore valore aggiunto e massimizzare così ricavi da privati in un momento di tassi bassi nel quale è difficile guadagnare dalla raccolta. E però, insomma, di questa faccenda, di questo nuovo onere che sta arrivando, ovviamente risultano penalizzati soprattutto le fasce deboli, i pensionati che magari hanno sul conto corrente una, Nicola, pensione da 500 euro, per andarne a prelevare 200 devono pagare 3 euro. È chiaro che è proprio una, è antimpopolare, poco popolare, insomma, una misura di questo tipo, anche se la volessimo definire comprensibile. Sì, sono d'accordo. Va ricordato però che c'è una motivazione molto seria per la quale le banche stanno cercando di stringere in tutti i modi sull'utilizzo del contante. È una motivazione che, come hai detto, ha a che fare con i costi per le banche, ma è una motivazione che ha anche a che fare con la sicurezza, sia la sicurezza delle banche che la sicurezza del cliente e anche la sicurezza dell'intero sistema economico. Pensiamo alla questione del riciclaggio. L'Italia è il paese dell'Europa nel quale circola la maggior quantità di contante, specialmente di grosso taglio. Ci sarà un motivo. Certo, sentiremo dopo la posizione anche di Altro Consumo e i rilievi che gli associati a queste organizzazioni stanno facendo, insomma, su questo punto, ma naturalmente ci sono tanti altri argomenti che riguardano anche il nostro rapporto con la banca. Ieri l'ennesima rilevazione di Federconsumatori a Adusbef sul costo dei costi correnti, ancora una volta definiti più alti della media europea. Questa ormai è una nomea, una reputazione che non ci toglieremo mai più di dosso. Vedremo anche da questo punto di vista, insomma, come suggerire il miglior comportamento ai nostri consumatori in ascolto. 800 24 00 24 è il numero verde che potete utilizzare per intervenire in diretta. Se volete invece potete scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vi ribadiamo un po' la nostra questione affrontata stamattina nella nostra scheda. In Italia il contante allo sportello diventa più caro. Questo è l'allarme lanciato da diverse associazioni dei consumatori. Sotto i riflettori gli aumenti delle commissioni che diverse banche avrebbero applicato, ad esempio sui prelievi di denaro in agenzia, che in alcuni casi arriverebbero fino ai 3 euro per ogni prelievo. Sulla questione è intervenuto nei giorni scorsi lo stesso Mr. Prezzi, Roberto Sambuco, suscitando un acceso dibattito con gli istituti bancari. Questi ultimi si difendono sottolineando come queste operazioni si trovino in linea con le indicazioni dell'ABI sulla riduzione di circolazione del contante, seguendo inoltre gli obiettivi di razionalizzazione dei costi, recentemente confermati anche dal governatore di Banca Italia Mario Draghi. Le accuse di disservizio, opacità, mancanza di chiarezza lanciate da Sambuco in un'audizione al Senato, durante la quale il garante ha anche annunciato l'avvio di un'indagine, vengono insomma rispedite al mittente. L'ABI rivendica la trasparenza e il sano regime di concorrenza. Per gli istituti la priorità, in un momento in cui risulta difficile guadagnare sulla raccolta, è quella di liberare risorse allo sportello e destinarle ad altre operazioni. D'altro canto, però, rischiano di rimetterci le categorie più deboli, come gli anziani, che hanno meno familiarità con l'home banking e gli sportelli bancomat. 800 24 00 24 è il numero a vostra disposizione per intervenire in diretta. Faccio qualche esempio su questo, chiamiamolo così, balzello, non è esatto, ma così almeno siamo strapopolari anche noi. Questa mattina ci accattiviamo ancora di più il consenso degli ascoltatori in ascolto. BNL, per esempio, dal 18 aprile introduce per ogni prelievo di liquidi in agenzia inferiore ai 2000 euro 3 euro appunto di commissione applicata a questo prelievo. Questa commissione nelle ultime settimane è stata introdotta anche da Monte dei Paschi e Dubi. Curiosa la replica del Monte dei Paschi, che ha detto: il conto corrente sul quale applicheremo questa commissione di 3 euro per ogni prelievo in filiale è il nostro ultimo conto, è un conto esclusivamente online, per cui giustamente loro dicono è chiaro che è una sorta di penale che viene comminata ad un cliente che si è rappresentato come cliente online, per questo ottiene nel suo conto costi in assoluto più bassi, per cui è chiaro che un'operazione del tutto tradizionale viene fatta pagare. Unicredit prevede da tempo 3 euro per i prelievi allo sportello fino a 1500 euro e poi ne leggo qualcun'altra. È in controtendenza Intesa San Paolo, che ha appena abolito questa spesa con il nuovo conto corrente modulare facile, che è in distribuzione dal 21 febbraio. Restano però in vigore le precedenti condizioni per i vecchi correntisti: 1 euro per prelievi fino a 500 euro. Anna Vizzari: l'idea fastidiosa, dicono le associazioni dei consumatori, è che si debba pagare questa commissione per disporre del proprio denaro, del proprio contante. Sì, certo, questo è il principio per cui anche il garante della sorveglianza dei prezzi ha preso posizione su questo aspetto. Però devo dire che dal nostro punto di vista la cosa più importante è che questi costi, anche se sono presenti, devono essere giustificabili. Non può essere giustificata una commissione di 3 euro su un prelievo, ad esempio, di 500 euro allo sportello bancario. Sicuramente c'è dietro qualcos'altro. Quindi insomma, intanto si poteva fare una gradualità. Esatto, assolutamente, perché il criterio base deve essere sempre quello: qualsiasi spesa deve essere giustificabile. Quindi si tratta in realtà, ovviamente, come è stato già detto, di meccanismi per disincentivare l'arrivo del cliente direttamente in banca, non tanto di quindi lotta al contante, quanto proprio anche di razionalizzazione delle agenzie bancarie, quindi di riduzione del personale allo sportello, diciamo così, le operazioni di cassa. Sicuramente in Italia noi da questo punto di vista siamo indietro rispetto ad altri paesi, per cui è indubbio che ci sono delle classi di età della nostra popolazione di persone che difficilmente hanno addirittura la tessera bancomat per poter prelevare contante, e è strano da dirsi, però è così, e ancora di più sono pochissime le persone rispetto alla media europea che utilizzano l'home banking. Sicuramente è aumentato la percentuale negli ultimi anni, ma siamo ancora indietro, per cui sicuramente l'arrivo di queste commissioni di così elevato importo mette in difficoltà molte persone. Poi devo dire che l'inchiesta del garante della sorveglianza dei prezzi speriamo metta luce su altri aspetti, cioè al di là di questa commissione si è parlato anche per esempio delle commissioni applicate alle banche sul rosso di conto corrente, quindi le famose spese sostitutive della commissione di massimo scoperto, su cui sicuramente c'è più opacità da parte delle banche. Da questo punto di vista il cliente sicuramente non è messo alla condizione di conoscere esattamente quale sarà il costo, non c'è un indicatore sintetico di queste spese, quindi sicuramente ci troviamo in una situazione di poca trasparenza. Sì, allora, tra l'altro volevo ricordare che a proposito di questa apertura di questa indagine sul sistema dei costi alla clientela nel settore bancario, dopo l'audizione appunto al Senato da parte di Mister Prezzi, per il 15 marzo è prevista invece l'audizione dell'ABI, il sindacato italiano delle banche. Nicola Borsi. Ma io volevo aggiungere due dettagli che secondo me danno anche un quadro completo della vicenda. C'è in discussione, entrerà in discussione nei prossimi mesi, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei bancari. E una delle... questa relazione ce la vogliamo sentire. È una delle possibili ipotesi di modifica dal punto di vista normativo sulle mansioni riguarda proprio la figura del cassiere, perché è una delle figure che nello sportello costano di più, visto che prende un'indennità di cassa, per cui si mormora che ci sia la possibilità che nei prossimi anni la figura del cassiere si riduca progressivamente e che le mansioni non comportino più questo esborso per le banche dell'indennità di cassa. È una delle questioni che potrebbero essere discusse, sulla quale ovviamente c'è la contrarietà dei sindacati, e questa è una. La seconda questione, che secondo me non bisogna mai dimenticare, è che l'Italia è il paese occidentale dove la circolazione contante è legata anche al fenomeno dell'economia sommersa e illegale, il riciclaggio anche. Siccome in questo paese, secondo i dati dell'Istat, da 255 a 275 miliardi di euro sono le stime del valore dell'economia sommersa illegale, un sesto del PIL, è inutile pensare, e questo conferma anche il dato sulla circolazione di contanti la più alta di tutti i paesi dell'Unione Europea, della zona euro, è inutile pensare che non ci sia un nesso di casualità tra questa enorme quantità di contante che circola e il fatto che qualcuno questo contante lo utilizza e a qualcuno serve. È anche uno dei motivi, secondo me, per il quale le banche stanno facendo questa guerra al contante insieme ad altri tipi di operazioni finanziarie. È una delle forme attraverso le quali passa il riciclaggio. E intanto qualche ascoltatore che magari utilizza volentieri carta di credito e bancomat, dice sì vabbè, ma di ridurre le spese per carte bancomat non se ne parla mai. Un altro ascoltatore dice: se si vuole incentivare la moneta elettronica bisogna togliere la commissione sul prelievo bancomat, che già non c'è se si utilizza il bancomat della propria banca, per cui effettivamente, insomma, di modalità e di sportelli a portata di mano ne abbiamo tanti. Però insomma prenderemo in considerazione anche queste osservazioni e tante le telefonate che stanno arrivando, e riprendiamo dai nostri ascoltatori subito dopo la nostra prima pausa. E oggi siamo ritornati a parlare del nostro rapporto con la banca Salvadanaio, perché ha suscitato grande curiosità e anche molto disappunto fra molti consumatori questa novità che sta riguardando le banche, che stanno adesso introducendo una serie di commissioni sul prelievo di contante allo sportello. Su questa vicenda è stato chiamato anche a dire la sua in un'audizione al Senato nei giorni scorsi Roberto Sambuco, che è Mister Prezzi, il garante dei prezzi, annunciando l'apertura di un'inchiesta che riguarderà a 360 gradi anche altre problematiche, le spese scaricate dalle banche sui consumatori, come anche la corretta applicazione delle norme sul massimo scoperto. Però insomma questa prima faccenda è quella che sta creando il disappunto maggiore, come dicevo, perché effettivamente anche per prelievi minimi come di 2, 300, 500 euro pagare 3 euro appunto è una percentuale per fare questa, appunto, questo prelievo in contante direttamente allo sportello effettivamente appare un po' esagerato, e quindi anche le associazioni dei consumatori dicevano vabbè, niente da ridire, perché per i servizi è anche giusto che si paghi, che per i servizi che si ottengono, però magari intanto si poteva pensare a qualcosa di più graduale, scaglionato in relazione ai singoli importi che si prelevano. Detto questo, insomma, le questioni da affrontare sono molte. Stamattina le stiamo affrontando con Nicola Borsi, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, e Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. E cominciamo subito a sentire gli ascoltatori. Peraltro ce n'è uno che ci voleva chiamare, adesso non credo che riusciremo a fare in tempo a sentirlo, ma Giovanni da Brescia voleva dire: ci sono anche persone che non possono avvicinarsi al settore bancario, chi fallisce ad esempio deve girare con i contanti. Certo, è un problema anche questo, però adesso non stiamo parlando delle eccezioni stamattina, ma stiamo parlando di tutta la popolazione. Ognuno di noi ha un conto in banca, è chiaro che facendo il prelievo a bancomat non paga nulla se lo fa dalla propria banca. Se fa il prelievo da uno sportello diverso dalla propria banca, un piccolo balzello, una commissione la paga, un euro e mezzo, anche due e mezzo. E qua invece si tratta proprio di andare presso la propria banca, andare dallo sportellista, dal cassiere, come lo definiva appunto prima Nicola Borsi, e pagare 3 euro, credo che questo sia l'importo massimo fissato, per disporre del proprio denaro, e questo è l'aspetto che infastidisce di più. Sentiamo Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia domanda è questa: se si vuole scoraggiare l'uso del contante, perché alla cassa bisogna pagare e allo sportello bancomat no? Appunto, per Allora, beh sì, certo, lui giustamente dice: io posso prelevare 250 euro al bancomat, allo sportello bancomat, e magari pago, se vado in uno sportello diverso, un euro e mezzo. Se vado dallo sportellista, dal cassiere, per lo stesso importo devo pagare. Per quale motivo? Perché, diciamocelo chiaro e tondo, avere in mano una tessera bancomat consente di pagare molto spesso senza utilizzare contante, per cui l'utilizzo della tessera bancomat per... Intanto non paghi l'impiegato che sta lì, non utilizzi l'impiegato. Ma comunque l'utilizzo della tessera bancomat per ritirare contante allo sportello diventa un utilizzo molto residuale, visto che chi ha una tessera bancomat comincia a utilizzarla per fare tutta una serie di spese con le quali paga direttamente senza uso del contante. È chiaro che questo per la banca riduce l'utilizzo di personale, per cui effettivamente libera risorse. Allora andiamo adesso anche a Roberto da Genova, perché lo anticipavamo prima, non è che l'indagine di Mister Prezzi si limiterà all'applicazione di questa commissione per il prelievo di contante allo sportello, ma riguarderà di nuovo anche un monitoraggio di quello che è accaduto sull'applicazione delle norme sul massimo scoperto. E allora su questo aveva un quesito Roberto da Genova. Roberto? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Sono titolare di una piccola impresa. Senta, io da qualche mese mi trovo una spesa imprevista, il cosiddetto corrispettivo sull'accordato, sì, che viene calcolato in precedenza. Forse ce l'ha anche da un po' più di tempo, Roberto, sì, perché sì, da almeno un anno che ne parliamo, da un anno, sì, di questo nuovo vestito della commissione di massimo scoperto. Sì, io non la pagavo prima la commissione di massimo scoperto, pagavo delle spese, le cosiddette spese di istruttoria, e qualche altra spesa che andavano intorno ai erano centinaia di euro. Adesso all'improvviso, con questo corrispettivo sull'accordato che viene calcolato in percentuale, mi trovo a pagare delle spese esorbitanti. Ha chiesto un'elasticità di conto, Roberto? Ha un fido sul conto, uno sconfinamento? Sì, sì, sì, ecco. Posso chiedere quanto è in percentuale il valore di questo corrispettivo, più o meno? Intorno allo 0,50. Sì, è in linea con la vecchia commissione di massimo scoperto media calcolata dalla Banca d'Italia. Facciamoci raccontare da Anna Vizzari che cosa ne è stato della commissione di massimo scoperto, ricordando appunto che una norma precisa ne aveva previsto l'abolizione, ma naturalmente non è che le banche ci rinunciassero molto, ci avessero rinunciato molto volentieri, e noi avevamo fatto diverse puntate sul fatto che la commissione fosse uscita dalla porta per rientrare con un altro abito dalla finestra. Anna Vizzari. Peraltro diciamo che la sostituzione è andata a vantaggio della banca, perché prima la commissione di massimo scoperto colpiva il massimo debito del trimestre, non la punta massima di debito del trimestre, quindi si parlava di un utilizzo comunque anche dell'eventuale fido. Nel caso invece anche raccontato, è quello che succede ormai sui conti affidati, si paga sull'accordato, quindi indipendentemente dall'utilizzo c'è questa commissione che poi è pari sempre, nella maggior parte dei casi, al massimo previsto dalla legge, quindi lo 0,5% dell'affidato per esatto, un trimestre. Quella è una percentuale. Che differenza c'è fra l'accordato e l'affidamento? No, l'accordato appunto viene detto accordato, affidato, ma comunque la stessa cosa. Sostanzialmente è il fido che viene concesso alla banca all'apertura del conto. E appunto questa commissione si paga comunque indipendentemente dall'utilizzo che si fa del debito. Quindi anche dal nostro punto di vista questa applicazione va anche contro il dettato della legge, che parla di spese che dovrebbero essere commisurate sia all'importo del rosso che al suo utilizzo. Quindi a nostro avviso si tratta di spese che sono state imposte in maniera sicuramente illegale. E poi si tratta, la discussione poi riguarda anche i conti non affidati, dove peraltro le spese hanno dei nomi diversi a seconda dell'istituto bancario, hanno anche degli importi diversi a seconda degli istituti bancari, non c'è un importo massimo come invece è previsto per i conti affidati, e qui se facciamo poi dei calcoli, quindi calcoliamo il cosiddetto TAEG del finanziamento, raggiungiamo delle cifre tranquillamente a dei valori tranquillamente a 2-3 cifre, quindi sostanzialmente si tratta di spese veramente esorbitanti e non giustificabili. Tra l'altro Anna Vizzari, Roberto dice di essersene accorto recentemente di questa novità sul suo conto corrente. A questo punto mi chiedo, le banche hanno fatto anche una comunicazione trasparente rispetto all'introduzione di questa novità? Il nostro ascoltatore potrebbe in qualche maniera contestare l'applicazione di questo nuovo onere, almeno ai suoi occhi, non so, che cosa potrebbe fare? No, la normativa è sempre quella del testo unico bancario sulla trasparenza, per cui la banca sicuramente avrà fatto una comunicazione prima dell'introduzione di queste spese, lui avrebbe avuto la possibilità di recedere alle vecchie condizioni entro 60 giorni alla comunicazione. Io penso che la banca la comunicazione l'ha fatta, probabilmente l'avrà fatta a margine dell'estratto conto, non so, e quindi magari non era molto visibile. Comunque ripeto, si tratta di condizioni che sono state inserite da tutti gli istituti bancari e coincidono con quanto ci risulta, per cui sicuramente ci sarà stata una comunicazione magari non così chiara. Infatti. Allora, c'è un'ascoltatrice, Paola, che ci scrive all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e che ci dice: sì, vabbè, state parlando della convenienza anche dei conti online, tema dibattuto tante volte, insomma ribadito tante volte, ma da dicembre la mia banca, adesso non la cito, poi magari sui conti online ha inserito un euro per ogni bonifico fatto sempre online. Nicola. Beh, questa è bella. È bella, è anche una grande banca, ti dirò. Immagino, questa è bella, bisogna capire esattamente se questa era previsto. È la BNL, se lei ha il conto e questo gli si verifica puntualmente, non è. Tocchiamo una banca che della convenienza dei suoi conti online ha fatto una grande cavallo di battaglia. Il famoso conto Revolution è stato. Infatti, una grande campagna pubblicitaria lo scorso anno. Innanzitutto bisogna che questa variazione delle condizioni contrattuali sia stata comunicata con ampio anticipo. Secondariamente bisogna anche capire a che tipo di bonifici ci si riferisce, se a tutti, ai bonifici periodici, a determinate categorie di bonifici effettuate con urgenza o su conti all'estero. Oppure, a meno che non abbia previsto un tot di bonifici gratuiti. Infatti, in questo conto, ma mediamente l'online ha quasi tutte le operazioni gratuite. Ma non sempre, non sempre perché ci sono delle categorie di conti che cambiano a seconda dell'utilizzo che se ne fa, e ci sono dei conti che prevedono un certo numero di operazioni gratuite sopra le quali cominciano a scattare degli oneri. Esattamente, quindi Paolo, ipotizziamo che si possa essere verificata una circostanza di questo tipo, un euro per ogni bonifico fatto, se questo bonifico è superiore al tot previsto. La cosa migliore da fare è sempre prendere un anno di operatività del proprio conto, andare a vedere il numero di operazioni effettuate e poi andare a controllare con quel numero, che è effettivamente l'utilizzo medio che se ne fa, se esistono nella stessa banca o in altre banche offerte alternative che invece siano totalmente gratuite o meno costose. So già che mi aspetta la telefonata dell'ufficio stampa di questa banca nel pomeriggio, quindi poi Paola le potremo dare indicazioni assolutamente più precise. Intanto andiamo a Romeo da Livorno, buongiorno, che nome romantico che ha. Buongiorno. Posso? Certo. Dunque, innanzitutto ogni banca ha anche un conto che è chiamato di solito conto pensionati. Sì. E quindi quella commissione che si vorrebbe attribuire ai poveri pensionati che hanno già delle limitazioni di ingresso, basterebbe dire qualunque cosa si debba applicare giustificandola ai conti pensionati non va applicata, per un motivo semplice: primo, perché sono anziani e non possono andare certamente a digitare con queste carte all'esterno di solito di banche, quindi con tutto il pericolo. Guardi Romeo, io ho mia mamma che non è che sia poi così così vecchia, ma non lo vuole usare. Praticità. Terzo, sono dei pensionati, quindi non è che fanno dei movimenti, arrivano a una modesta pensione di solito, fanno un prelievo massimo al mese e a quel punto sono a posto. Ma siccome il signor Mussa di Montepaschi Siena lo conosco molto bene, fanno un sacco di discorsi di risparmi qui, risparmi là, ma scusi, e i risparmi si fanno con l'efficienza, non sui disgraziati soliti pensionati devono andare a terrorizzare. Romeo, sa che la crisi le ha travolte talmente tanto che fanno entrambi i discorsi, naturalmente, e io lo ribadisco, una cosa che ho detto qualche giorno fa, che è quella che dice sempre, lo ripeto, il mio amico Marco Fratini, che ha scritto Vaffan Banca, Vaffan Crisi, adesso peraltro stanno ritornando in edicola con un altro libro che si chiama Mutande di Ghisa. Vi dico solo questo. Marco mi dice sempre: le banche non sono chiese, ma sono dei negozi, e Romeo, pertanto, come tali si comportano. Però commenteremo anche tutte le sue osservazioni dopo i suggerimenti, perché è in viaggio. Ci siamo presi a cuore il caso di questo pensionato di Livorno che ci ha chiamato prima, che adesso basta che non ci provochi anche lo, come dire, lo strappo diplomatico con il presidente dell'ABI, nonché numero uno del gruppo Monte dei Paschi. Però Nicola Borzi, ci chiedevamo a microfoni spenti, ma tutte le banche hanno un'offerta per il pensionato? Assolutamente sì, perché in base alle categorie di utilizzatori decise dalla profilatura di Banca d'Italia, le varie offerte integrano anche quelle per pensionati con bassa operatività e pensionati con operatività media. La realtà è che ci sono offerte per canali diversi, ci sono offerte per il canale fisico, ci sono offerte per il canale online, ci sono offerte per i canali telefonici. Dipende dal tipo di operatività che si fa del proprio conto. Perché dicevamo anche a microfoni spenti, un po' maligni io e Nicola, c'è il pensionato che davvero vive di pensione minima di 500 euro al mese, per cui è chiaro che quello viene accreditato sul suo piccolo conto corrente. Andarci a pagare per un prelievo di 150 euro che magari gli permette di andare a fare la spesa per una settimana, a pagare due bollette, 3 euro, è ingiusto. Il pensionato che è l'ex più grande imprenditore del paese, magari su quel conto corrente, ha un'operatività molto diversa, e quindi anche lì ritorna un po' il discorso della gradualità, sulla quale invitiamo le banche ad una riflessione. Anna Vizzari, Alessandra ci scrive: ho un'impresa di medie dimensioni, sulle contabili delle spese viene spesso scritto spese per servizi resi. È regolare non specificare il tipo di spesa? Cosa sono questi servizi resi che paghiamo sul conto? A parte il fatto che stiamo parlando di un'impresa, per cui probabilmente sono dei servizi particolari legati magari al pagamento anche di fatture, di bollette particolari, devo dire che comunque in base alla normativa sulla trasparenza tutte le spese dovrebbero essere ben specificate, per cui parlare genericamente di servizi resi è un po' opaco. Sicuramente sarebbe un diritto del cliente conoscere esattamente quali sono questi servizi. Se posso dire qualcosa sui conti pensionati, certo. Devo dire che da una nostra rilevazione i conti pensionati hanno mediamente dei costi annui superiori a quelli dei tradizionali conti, per cui in realtà diciamo che per la fine la commissione che non si pagherebbe allo sportello in realtà rientra nel canone che si paga per il pacchetto. E che oneri pagano in particolar modo i pensionati? Da cosa risulta questo maggior valore? Hanno normalmente dei canoni mensili, quindi per il pacchetto, che sono superiori rispetto a quelli dei conti tradizionali, per cui per la fine, se stiamo parlando di convenienza economica, la cosa non si risolve, ecco. Sui bonifici, è il caso del precedente radioascoltatore, sì. Anche qui dobbiamo dire che noi abbiamo rilevato, da quando è entrata in vigore la normativa SEPA, quindi la piattaforma unica europea per il trattamento dei bonifici, che c'è stato un aumento dei costi sia allo sportello che online. Quindi sostanzialmente questa piattaforma unica, che avrebbe dovuto rendere più facile, veloce e anche rendere anche più economico, diciamo così, il trattamento del bonifico, in realtà è diventato più costoso per l'utente. Insomma, arriveremo alla tragica evoluzione per cui il denaro che abbiamo sul conto corrente sarà completamente indisponibile, Nicola, da quello che capisco, perché se non ce lo fanno più muovere col bonifico, andare a fare un prelievo è diventato un salasso per il quale dobbiamo contestualmente chiedere il mutuo per pagare appunto il prelievo. Beh, adesso a parte è chiaro che è un'esagerazione, però... Non vorrei dire come, cioè, prendere una posizione scomoda e sicuramente antipatica per molti ascoltatori, però bisogna anche mettersi dalla parte delle banche. Da qualche parte le banche il proprio conto economico lo devono far quadrare. Allora, il margine di interesse, per cui la differenza fra il costo a cui pagano il denaro e il costo a cui lo prestano, è ridotto, crescerà perché i tassi stanno crescendo, va bene, i servizi li devono far pagare in qualche modo. La questione è se questi servizi effettivamente scontano una concorrenza reale, per cui il prezzo è un prezzo equo per il cliente finale, o se invece questa concorrenza non c'è. Il tema è quello della concorrenza e anche dell'efficienza. Allora, la lotta al contante, dicevamo, e la totale resistenza che molte famiglie hanno ad utilizzare carta e bancomat, carta di credito e bancomat, e quindi preferiscono il contante. Tra le motivazioni che spesso appunto i consumatori sostengono c'è quella che ci riassume Andrea da Parma. Buongiorno. Sì, buongiorno, la più bella voce d'Italia. La più bella? La più bella voce d'Italia, penso che sia la sua. Guardi, in questi giorni poi sembro veramente un... lasciamo per me una parola... Lasciamo stare, un mal di gola che me lo trascino da una settimana che neanche le sto a raccontare, Andrea. Grazie comunque. Comunque volevo segnalarle che tanta gente, non propriamente anziana, si allontana dal bancomat perché oggigiorno sono tante le clonazioni sono all'ordine del giorno, e questo penso che sia un freno per la gente che si avvicina al bancomat. Ma anche i malviventi sono tanto diffusi e ci possono rubare il portafoglio, Andrea, non appena usciamo dalla banca con ovviamente le tasche gonfie di contante, non trova? Sì, quello è vero. Però se il contante ce lo portano via non lo recuperiamo più, magari utilizzando per un pagamento la carta di credito in qualche maniera col sistema delle assicurazioni. Perfetto. La banca ci risarcisce, siamo un pochino più tutelati forse, non trova? Esattamente, quello che volevo dire io. Grazie Andrea. Nicola, che dici tu? Ma sì, sicuramente l'obiezione è un'obiezione in qualche modo anche ragionevole, però a me risulta che in realtà le clonazioni non avvengono soprattutto sugli sportelli del bancomat, ma avvengono molto più di frequente ultimamente sui POS degli istituti dei negozi, dei grandi centri commerciali, dove si va a pagare con la carta. E qui si tocca anche un altro argomento. È vero che l'utilizzo del bancomat è gratis se lo si fa sul proprio sportello, è vero anche che il commerciante, quando viene pagato attraverso un POS, lascia alla banca una commissione su quel denaro che ha incassato, per cui è anche vero che ci sono dei commercianti che dicono grazie, noi preferiamo essere pagati in contanti, perché è vero. Infatti io faccio tante volte l'esempio del turista giapponese, e speriamo che con questo terremoto ne continui ad arrivare qua, là, che non siano rimasti tutti bloccati lì, che viene in Piazza Duomo a Milano e vuole pagare un caffè di 5 euro, appunto, per sé e per il suo compagno, ed è molto difficile che si accetti in un bar di Milano un pagamento di questo tipo, mentre se noi andiamo in giro per il mondo non abbiamo nessun tipo di problema ad utilizzare la carta ovunque negli Stati Uniti in modo particolare, per cui sì, abbiamo noi delle resistenze, anche il mondo del commercio, anche loro hanno le loro ragioni, perché effettivamente ci pagano un salasso di commissioni su queste operazioni. Sentiamo Luigi da Roma. Sì, buongiorno, il mio intervento voleva... Si può avvicinare col viva voce, Luigi, o con l'auricolare? Ah, ecco. Sono con l'auricolare, se volete lo tolgo un momento. No, no, ma magari se lo avvicini un po' di più in bocca, se ce la fa. Eccomi qua, eccomi. Allora, io diversi anni fa ho preso coscienza del mio ruolo con la banca. Cioè, io entro in banca e, come avete detto prima, per me la banca è un negozio. Entro, faccio il cliente, esigo certe prestazioni e la mia non accetto più passivamente quello che mi viene detto. Ottimo. E mi viene offerto. Lo contratto, ovviamente la banca, tanti noi ci prendiamo in giro, vuole soldi, vuole liquidità, l'importante è non dargliela gratis, quindi io la liquidità che ho, piccola magari, te la do da banca. Però in cambio voglio certe condizioni. Già me lo vedo quel direttore, Luigi, quando arriva lei trema, cominciano a sudare i polsi proprio. Anche non sono istituti di beneficenza, come le assicurazioni, stesso principio. Quindi io entro, se non accettano quelle condizioni ne cerco un'altra. E non è un problema nemmeno cambiare la tipologia di conto, tanto più che oggi la legge comunque ci permette di spostarci. Sono riuscito ad avere un conto corrente a spese completamente a zero, pago soltanto i bolli. In una banca tradizionale, con forti deroghe a tutti sulle commissioni, tutti gli investimenti, qualcuno anche a zero. Buona grazia anche, devo dire, però, al direttore della mia filiale, che è una persona bravissima, e alla persona che cura i rapporti tra me e la banca. Quindi Non so, Luigi, grazie. Io devo salutarla, purtroppo. Il problema, prendiamo atto dei suoi suggerimenti, è che non tutti hanno questa capacità contrattuale. Qualcuno si vergogna anche a chiedere veramente o solo la più microscopica informazione al direttore di banca. Però, insomma, speriamo che il suo suggerimento sia stato preso da molti. Adesso, rapidamente, le parole della Previdenza. INPS, per saperne di più. Oggi l'INPS ci spiega che cos'è il modello CUD per i pensionati. Il modello CUD è il documento necessario per la presentazione della denuncia dei redditi che l'INPS spedisce ogni anno ai pensionati entro il 28 febbraio. Questo documento contiene i dati relativi alle pensioni pagate dall'INPS nell'anno precedente. Nel modello non sono segnalate le trattenute effettuate ai pensionati che lavorano. In caso di pensione di reversibilità pagata a più titolari, il modello è spedito a ciascuno di loro, con le sole quote ad ognuno riferite. Il pensionato che non riceve il modello CUD al proprio domicilio può rivolgersi direttamente all'INPS per ottenerne il duplicato. Per presentare la dichiarazione annuale del modello 730, i pensionati possono rivolgersi presso gli uffici INPS più vicini. Vi ricordo rapidamente, prima di salutarci, che il 6, il 7 e l'8 aprile c'è la nuova edizione del Salone del Risparmio. Salvadanaio, in collaborazione con Assogestioni e il Salone, ha istituito un servizio di segreteria telefonica 800 28 12 12. Potete utilizzarlo per lasciarci le vostre domande e dirci che cosa vorreste chiedere al vostro consulente in tema di risparmio gestito. Noi vi cominceremo a rispondere da lunedì con i nostri esperti. Grazie a Nicola Borzi, a presto. Grazie a voi. Ad Anna Vizza, Arianna, presto, buona giornata. Grazie anche a voi, buona noi giornata. Noi ritorniamo lunedì. Lunedì avremo il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.